Il ministro Calderoli già al lavoro nei ministeri decentrati di Monza. Domani corsa al sacco nel parco. Mercoledì il ballo della Tusa. E giovedì gnocchi. Sulle montagne, una sparva, vincoli, spinastre,